Questo è un podcast di Rivista Militare. Don Minzoni, un prete energico e scomodo, di Giuseppe Cacciaguerra. Ieri, ore 22:30, due fascisti finora sconosciuti aggredirono proditoriamente con violente bastonate arciprete locale Minzoni Giovanni. Gravi percosse causarono morte arciprete. Movente delitto, lievi dissensi politici. Temonsi perturbamenti ordine pubblico causa notorietà ucciso. Richiesto adeguato rinforzo. Questo il telegramma partito dalla tenenza dei reali carabinieri di Argenta a firma del tenente Borla, signor Costantino, spedito il 24 agosto alle 10:20. Così morì a 38 anni per una brutale bastonatura Don Minzoni. Un prete scomodo, troppo ingombrante. Già cappellano militare, fatto non secondario, fu decorato di medaglia d'argento al valore militare nel 1918, a testimonianza di un carattere coraggioso e forte. E infaticabile animatore della vita dei suoi parrocchiani, soprattutto dei più giovani. L'autore del telegramma e delle prime indagini, invece, sarà trasferito nell'aprile del 1924 alla Legione Allievi Carabinieri Reali di Torino, esclusivamente in considerazione di motivi d'indole familiare. Tale trasferimento non ebbe attinenza alcuna con l'assassinio, come recita un documento ufficiale. Per inciso, il carabiniere si dimostrò attivo fin da subito, individuando la matrice dell'omicidio. Evidentemente qualche dubbio il caso lo sollevò, se fu condotta addirittura un'indagine sul trasferimento di un ufficiale subalterno. Ma questa è già la fine della storia. Una vita troppo breve, ma spesa intensamente nella e per la fede cristiana, che è, anzitutto per lui, attenzione e cura verso i giovani. Ad un secolo dalla sua morte, proviamo sinteticamente ad affrescarne la figura. Giovanni Minzoni, terzo di cinque figli, nasce a Ravenna il 29 giugno 1985, da famiglia che si può definire della piccola borghesia. Il padre riuscirà a diventare proprietario di una locanda chiamata Il Cappello. Non ha dubbi sul suo futuro ed entra in seminario a Ravenna. 1897-1909. Non per compiacere lo zio Don Giuseppe, ma perché la fede lo chiama. In quegli anni di studi, con molto profitto, egli non è insensibile alle idee di Romolo Murri sul cristianesimo sociale, da non sottacere però che Murri fu scomunicato da Pio X nel 1909, anno in cui fu ordinato prete Don Minzoni, e questo fatto lo scosse molto. La sua prima destinazione, nel febbraio 1910, è proprio Argenta come viceparroco. Il suo dinamismo e la capacità di comprendere la società in cambiamento sono straordinari. Si chiede perché le osterie sono piene e le chiese sono vuote, e si sente in dovere di provare a scardinare quel sentimento anticlericale così diffuso nella Romagna laboriosa e socialista. Per farlo continua a studiare e si laureerà nel 1914 presso la Scuola Sociale di Bergamo. Non trascura mai la vita della parrocchia e costruirà, tra l'altro e fin da subito, un ricreatorio maschile. Sa che i giovani vanno seguiti e vanno loro offerte valide alternative. L'esperienza militare in guerra giunge nel febbraio del 1917 al fronte, proprio in trincea, perché lì voleva stare, uomo tra gli uomini, cristiano tra i cristiani. Come cappellano militare col grado di tenente, nel 255° Reggimento Fanteria. Anche in prima linea, il contagioso entusiasmo di Don Minzoni è noto a tutti. Conforta, prega e assiste i bisognosi, certo. Ma non si tira indietro neppure nell'azione. Così capita che alla testa di un gruppo di arditi, imbracciato il fucile, avanza verso il nemico facendo coraggio ai propri commilitoni. L'eroico gesto gli varrà la medaglia d'argento al valore militare con la seguente motivazione. instancabile nella sua missione pietosa di confortar feriti, di aiutare i morenti durante il combattimento. Impugnato il fucile e messosi alla testa di una pattuglia di arditi, si slanciava all'assalto contro un nucleo nemico, faceva numerosi prigionieri e liberava due nostri militari di altro corpo precedentemente catturati. Era il giugno 1918. Al termine di quella inutile strage, Don Minzoni ritorna alla sua amata comunità e prosegue con ancor maggior lena l'opera a favore delle nuove generazioni e si interessa della loro educazione, in specie con l'Associazione dei Giovani Esploratori Cattolici Italiani. Il successo che ottiene è tale da oscurare i risultati dell'opera di inquadramento giovanile voluta dal Duce. Questo fatto, unito alle denunce contro le spregiudicate violenze dei fascisti, tra l'altro li accusò chiaramente di aver ucciso il sindacalista Natale Gaiba, alle comunioni a favore dei figli dei socialisti, ai rifiuti di farsi irreggimentare quale centurione cappellano della 76esima legione della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, segnò la sua fine. Con buona probabilità gli ordini giunti ai due squadristi artefici dell'aggressione, Giorgio Molinari e Vittore Casoni, furono quelli di dare una lezione, alias picchiare sodo, a questo scomodo e irriducibile prete, non di ucciderlo. Certo è che il colpo alla testa, dato con un bastone o con una mazza ferrata, fu fortissimo. Spirò poche ore dopo. Andò meglio, con ferite guaribili in poco più di una settimana, ad Enrico Bondanelli, suo amico, che lo stava accompagnando in quel momento. I funerali di Don Minzoni furono seguiti da migliaia di persone, ma l'individuazione dei mandanti fu ostacolata in tutti i modi. È nell'oscuro ambiente delle coperture che si fa largo il nome di Italo Balbo, fondatore del fascismo ferrarese e suo indiscusso RAS, nonché un picchiatore tra i più spietati, violento al limite della crudeltà. In quanto a un suo diretto ordine, pare da escludersi, come invece sembra certa la sua personale responsabilità in merito alle protezioni offerte agli esecutori. Maldestra poi fu la causa intentata contro La Voce Repubblicana, giornale che aveva pubblicato, nel primo anniversario della morte di Don Minzoni, un pesante atto di accusa nei suoi confronti. Aveva affermato la consapevolezza balbiana del clima intimidatorio instaurato dai fascisti. Quel suo tentativo legale di rivalsa gli si ritorse contro, da accusatore ad accusato. Il tribunale, infatti, entrò in possesso di una lettera di Balbo, Memoriale Beltrani del 31 agosto 1923. Tommaso Beltrani, talvolta scritto Beltrami, già ardito nella Grande Guerra, a Fiume con D'Annunzio, abbandona il fascismo e fugge in Spagna dove combatte contro i franchisti, ove emergevano nettamente le sue responsabilità nella repressione ferrarese del dissenso. Come? Agli avversari bisognerà spiegar loro che è igienico mutar aria. Bisognerà bastonarli senza esagerare, ma con consuetudine. Il tribunale, quindi, assolse il giornale e condannò il querelante al pagamento delle spese di giudizio. Balbo presentò le sue dimissioni al comando generale della milizia a Mussolini, che le accolse, in quanto motivate da alto senso di responsabilità e fierezza, come devono fare fascisti e gentiluomini. In questa vicenda, però, l'unico gentiluomo che spicca resta Giovanni Minzoni, il Don. Giorgio Molinari e Vittore Casoni, assolti nell'immediatezza dei fatti, furono ritenuti colpevoli di omicidio preterintenzionale nel 1947, ma subito amnistiati. Il podcast di Rivista Militare vi dà appuntamento al prossimo episodio.